molto a pena. L'uomo di Roma, chiunque ci sia, sempre oppresso. Questa è la domanda spontanea che viene sia. Allora, di quale regno è Gesù Cristo? E ci poniamo questa domanda mentre prendiamo contatto con le situazioni difficili della nostra storia. Una difficoltà che ci fa vedere, forse comprendere, nella sostanza, magari per di più nascosta, i regni di questo mondo. Però ci permette anche di scoprire, qui c'è uno sbrego dentro la coscienza, il conflitto della doppia appartenenza. Appartenere ai regni di questo mondo, date a Cesare, e al regno di Gesù Cristo, date a Dio, quel che è di Dio. In questo momento, quando dico momento, è la storia che leggiamo, che ascoltiamo. È vero, noi abbiamo tutte le ragioni per essere in timore, perché è vero che le nazioni di questo mondo sono in terribile conflitto. Poi di quelle del Congo che stanno ammazzandosi, non se ne parla un granché, più Tel Aviv e Hamas, no? Però, per cui la spirale, usiamo questa parola, che non è mica più appena carica, anzi, meno carica di bombardieri, purtroppo ci sono anche quelli, di carri armati, di pistole, ma c'è la guerra della finanza, la guerra della finanza, la globalizzazione del flusso finanziario. Oh, queste sono cose che ci mettono in pensiero. Gesù dice: i regni di questo mondo non sono nella verità. Nonostante dicano molte parole, la pace, la libertà, la democrazia, la collaborazione, il dialogo, poi dopo quelle brutture, la guerra umanitaria, la guerra preventiva, no? Ti viene la febbre addosso solo a sentirle queste parole. La proposta della parola di Dio oggi è quanto mai adatta per condurci a una profondità della nostra coscienza, della nostra libertà interiore, là dove si costruisce un regno che non è di questo mondo. Ma è a questo punto che penso sia logico per noi provare a riflettere: ma cos'è questo regno di Dio? Oh, Gesù è un ebreo, quindi ha sentito parlare dei re, il re Davide, le monarchie dei re. Regno dei cieli vuol dire regno di colui che è nei cieli. Nella Bibbia si usa non il regno di, ma il regno dei cieli. È tutto un linguaggio, però non voglio ingarbugliarmi dentro in questi discorsi. Del regno di Dio non è che sia Gesù che per la prima volta ne parla. Tanto è vero che Giovanni Battista parlava del regno, con tutto il suo movimento, parlava del regno di Dio. Ma dove sta la novità allora di Gesù, del discorso di Gesù, del modo di concepire il regno di Gesù? La novità è che l'annuncio del regno è vicino. Questo nessuno mai l'aveva detto. Avevano detto che verrà chissà quando, forse neanche Gesù sapeva quando, ma sa che è vicino. Mi piace concepire il regno di Dio come un dono, come dire, meglio ancora, una eredità. Il discorso di Gesù è molto dialettico, è molto dialogante. Da un lato annuncia la presenza, l'interiorità, dall'altra dice che è un'eredità, cioè un regalo, è un regalo per te, che è in mano tua, ma non è tuo. Dio non è mai un possesso. Dio è una presenza. Però per entrare dentro, così vi stufo un po', mi piace mettere in rilievo, mi piace nel senso che lo trovo più legato ai testi biblici che abbiamo ascoltato, ci sono dei tratti salienti di questo regno annunciato da Gesù. Ne provo a elencare alcuni. Si dice, c'è l'espressione regno di Dio. Sembrerebbe così spontaneo, così immediato. Solo che possiamo considerarlo legittimo perché è esclusivo. Cioè, esclude che sia il regno di Davide. Esclude che sia il regno di Israele, esclude che sia la restaurazione della monarchia davidica. C'è una lunghissima storia, no? Dietro. Ma c'è anche però un mettere a sottolineatura che sbaracca l'ideale teocratico. Questa parola qui, cosa vuol dire? Il re sarebbe l'unto del Signore, il vicario del Signore, il re. Noi sappiamo, dentro la nostra cultura occidentale, che questa ideologia, questo modo di pensare, secondo cui il re è l'unto del Signore, ha funzionato dentro le comunità cristiane. Di passaggio, dico, il Papa Innocenzo III, il Papa Urbano VIII, erano i teorici di questa teocrazia, per cui l'imperatore era sottoposto al potere del vicario di Cristo. Quindi non è che andiamo molto lontani. Poi qualcosina sta avvenendo anche adesso, no? Tutte altre forme lì, così, finanziamo qui, limo di là, tiriamo il centro, i cattolici, bla bla bla, va bene. Ma viene escluso anche il regno di Cesare, l'impero romano. L'imperatore romano si chiamava Salvatore. E quanti salvatori abbiamo dovuto subire nella storia del nostro Occidente? Tanti salvatori che non salvavano neanche loro stessi. Abbiamo quella pagina straordinaria del Vangelo di Giovanni, quando Gesù, appunto davanti a Pilato, lo rassicura dicendogli: il mio regno non è di questo mondo, stai tranquillo, non ti faccio le scarpe, non ti faccio concorrenza. rispetto al tuo regno ne porto uno diverso. Ecco allora una seconda caratteristica di questo regno. Il regno di Dio non è di questo mondo, ma è in questo mondo, per questo mondo. Non è di questo mondo perché i criteri di giudizio, le regole che governano, le priorità, non sono le regole, le priorità, i criteri di giudizio che valgono per questo mondo. Pilato non capisce niente di tutto questo, naturalmente. Dice, oh beh, ti hanno mandato qui capi dei sacerdoti, la cupola. Allora un terzo tratto, e qui penso di non disturbare le coscienze di nessuno, anzi, è che questo regno di Dio non ha nulla di religioso, nulla di ecclesiastico. Il teatro di questo regno, il luogo in cui si svolge, si manifesta, là dove appunto la presenza di questo regno è contattabile, è la quotidianità. Il regno è nel quotidiano più ordinario. Il regno di Dio è laico. Stare attenti a dirle, ma forse bisogna penetrare dentro. Cosa vi fa pensare? Perché mica la invento adesso, o perché mi piace. Se leggiamo tutte le parabole dai Vangeli, tutti e tre soprattutto, Giovanni di parabole ne racconta mica tante. No. Le parabole del regno, non ce n'è una che si svolga in ambito religioso. Faccio gli esempi. Il regno è paragonabile a una donna che mette il lievito nella farina. È un contadino che esce a seminare. È un mercante che va in cerca di perle preziose. E così via. Cosa vuol dire questo? Che lo spazio del regno non è l'ambito religioso, ma è l'ambito della vita quotidiana delle persone. Non è neppure la Chiesa, che poi debba essere un segno particolare della presenza di questo regno, delle caratteristiche di questo regno, ok, ma non si identifica con il regno di Dio. Il regno di Dio è il mondo, è nel mondo. E nel mondo si gioca la partita del destino delle persone. Velocemente due tratti ancora per chiudere. Perché è impressionante che il regno di Dio è nascosto. Non viene in modo da attirare sguardi. Non fa rumore. Non fa spettacolo. Sia nel senso che non appare, non ha dei segni particolari, come lo è del resto il lievito nella pasta, il seme della terra, la perla dentro la conchiglia. Però vuol dire che il regno di Dio non sta alla superficie delle cose, non sta alla superficie della storia. Sta nel fondo delle cose. A me piace sempre pensare alle cose, anche agli eventi, come dono. Se non parto da lì, come faccio a capire il senso che hanno? Che direzione mi danno? Che illuminazione mi offrono? Le cose, gli eventi. Ecco perché Gesù parla del regno di Dio: a voi è dato di conoscere il mistero del regno, a voi è dato di conoscerlo. Questo carattere nascosto è una sfida alla società dell'immagine, alla società dei bisogni indotti. Il regno è tutto il contrario, è dentro, sta lì, abita nella mia coscienza, abita nell'esercizio della mia libertà, abita nell'esercizio del mio donare, dico del mio nel senso ognuno delle persone. Da ultimo è che questo regno, un tratto saliente, è presente e futuro. Anche qui mica invento, eh? Gesù dice, il regno è giunto fino a voi, presente. Poi ci insegna a pregare, cosa ci insegna? Venga il tuo regno, si lancia nel futuro. Venga il tuo regno. C'è una compresenza di presente e futuro. Mi intriga un po' questo enigma. E allora come posso orientarmi a chiarire meglio? Che presente e futuro potrebbe, può significare una transizione dal carattere nascosto a quello manifesto. Un'altra chiave di lettura potrebbe essere che la presenza del regno è una presenza di Dio, ma Dio è eterno, presente e futuro. Non può essere rinchiuso dentro nel presente secondo le categorie del nostro modo di concepire il tempo. Cioè, dire presente e futuro contemporaneamente vuol dire spezzare i confini, andare oltre i confini, dilatarsi dell'esperienza della verità. Che cos'è la verità? È la misura con cui la nostra coscienza sa realizzare la presenza del regno di Dio là dove ci incontriamo a vivere. Mi fermo qui perché poi potrebbe... Allora è bello dire gloria a Dio nell'alto del cielo.